la spesa pubblica italiana è superiore al 50% del prodotto, ma che ci sono 10 punti di prodotto interno lordo di spesa, 160 miliardi, che sono dedicati a finanziare il nostro irresponsabile passato, cioè 80 miliardi di interessi sul debito pubblico e 80 miliardi di pensioni pagate a persone che hanno meno di 65 anni. Se no, il resto della spesa pubblica italiana è inferiore alla media europea, ma abbiamo queste due voci che ci ammazzano. Allora bisogna garantire che noi siamo in grado di stabilizzare la situazione affrontando questi nodi di fondo. Una volta che effettivamente il governo abbia mostrato di essere capace di garantire il bilancio e il pareggio di bilancio e di affrontare il tema della valorizzazione e alienazione del patrimonio pubblico per ridurre il volume globale del debito, io mi chiedo, ma non sarebbe interesse anche di quel 10% delle famiglie italiane che detengono quasi la metà della ricchezza netta e del patrimonio netto italiano che questa operazione di stabilizzazione sia completata anche grazie a un loro modesto contributo? In fondo, in questi anni di crisi hanno perso molto di più di quello che noi proponiamo loro di contribuire attraverso la patrimoniale straordinaria per chiudere il problema del debito pubblico italiano definitivamente, garantendo che non ne faremo più perché la spesa verrà messa sotto controllo. La mia opinione è che in quel contesto una modesta patrimoniale per 3 anni per contribuire a chiudere il problema del debito sarebbe una soluzione ragionevole.